我喜欢旅游，喜欢拿着单反到处拍照，拍美丽的风景，拍家人的笑脸。我会变魔术，女儿说我总能变出一个个袋子，把她旅游时吃的零食果皮统统装下。我还是个篮球运动员，总能把用完的矿泉水瓶准确地投入垃圾箱。你问我是谁？我只是个普通的游客。 每一位游客都是文明的使者，文明出游从你我做起。 歌颂生命，舞动青春，歌舞剧场，人生与梦想的舞台。北京音乐广播古典音乐有限频道，每天10点22点播出。 Mamma soltanto felice perché ritorno da te。 欢迎收听歌舞剧场，我是古月。今天带来的是普契尼的三幕歌剧《西部女郎》。19世纪，美国金矿开发，在加利福尼亚有一位美丽的姑娘 Mini 开了一家酒吧。当地的警官兰斯向 Mini 求爱，遭到拒绝，但 Mini 却暗恋着强盗约翰逊。他和约翰逊定下了约会时间。这时候，兰斯率领众淘金者出发，追捕强盗拉马瑞斯。不久后，兰斯回到酒馆，他向 Mini 揭露约翰逊和拉马瑞斯原本就是同一个人。 Mini 了解到约翰逊的真面目时，打算和对方断交，但当约翰逊中枪受伤走投无路时， Mini 又将他藏身于顶楼，最终被捉要处死。而众淘金者和 Lance 在 Mini 的诉说下同意释放约翰逊，一对有情人从此走向新的生活。接下来就请欣赏内贝尔特·多明戈·米尔奈斯的演唱，祖宾·梅塔指挥英国皇家爱乐乐团演出的歌剧《西部女郎》。 Thank you. Thank you.

sdraio. Sono stanco, ho l'ossa rotte. A tutti buonanotte. Cosa c'è? Frenini. Mrs. Rance, fra poco, no, alza di chinese, e le si vede dopo di pedazzo, e questi che lavora, mi compagnisco, i compagni, e sono i tempi, e sono se mai vede dopo, i tempi. Buonasera, amici. sarebbe modo meglio. You're the fiendest.

adesso in cammino. E tratto sol dal fascino dell'oro, e questo giocare il vostro nome. Thank you. cane, mostraci la tua lurida faccia. Tu sei con Ramirez? Un fuggito lo diamo, se volete vi porto sulla sua traccia. Questo sudicio ladro ci canna. No, non vi inganno. Conosci il nascondiglio? È poco più d'un miglio alla Madonna Cagnara. Vi mostrerò la strada e nomi di mia madre, Maria Saltata. Giuro che non vi inganno. Se volete vi porto. Lì piangherò nel dorso la mia navata. Si va. Avremo la tormenta! Legata! Nel buon colpo! Si tenta! A cavallo! A cavallo! Non è preso e nel ballo! Dove si va? Dove si va? Si insegue la Lines! E loro! Gli occhi divini e bastano a guardare te! Mi sono lasciato prendere per sfidarli. Mi seguono nel bosco i nostri. Questo adregio un fischio. Se c'è il colpo, col fischio rispondete. Quest'uomo sa la traccia di Ramirez. Alla via! Breathe. E vi lasciano così. Oh, no, io... darvi l'ultimo saluto nella vostra capanna. Dovete proprio andare? Oh.

pietra portante, uscire, no. Entra, no. Entra. Non credete, non vuoi uscire. Entra, no. Entra, no. Tra queste brine, non sapete. No. Se verità, nascondi, nascondi. Avete la porta, vuoi, vuoi uscire. Resta, no. Del tuo Johnson d'inferno. N'ho seguito la traccia, deve esser qui, dov'è? Oh, m'avete seccato con questo vostro Ramirez! Son certo, non può essere fuggito, non può essere che qua. Thank you. mano. Forse m'avrò graffiato. No, non c'è graffio. Guarda, il sangue ancora. È là, è là. Pronto, taglia, a te. te. Due mani sopra tre. Quante? Due. Che tu l'adori. È un paio. Niente. Pari, siamo pari. Evviva. Ora è la decisiva. Sì. Taglia. Franz, mi duole delle amare parole. Sparta. Ho sempre pensato bene di voi, Jack Rans, e sempre penserò. Io penso solamente che t'avrò fra le mie braccia. Vedi, vedi, ti vinco! Presto già, per pietà! Con poche cose, dov'è? Che devo darvi? Vedo, ma gli chiedi dov'è? Non vorresti già, mi lo chiede per pietà! So perché sei svenuta, la partita è perduta! E spogliati, e mangiare!

consegno a voi quest'uomo perché sia dato alla comunità, faccia essa giustizia. Buona fortuna, o mio bel gentiluomo. E così, Mr. Johnson, come va? Scusate se m'abbiamo disturbato. Pure che facciate presto! Quanto a questo, bastano sbrigarci pochi minuti. È quello che desidero! E che desiderano tutti, vero? Hai saccheggiato tutto il paese, affondato, rubato e ucciso. No, la squadra di Monterre bandito fu massacrata dalle facce gialle di quelle coi canagli e messicane. Pugnalasti alle spalle il povero Tommy. No, non è vero. Sì, noi invece alla valle ucciso un po' studioso. Assassino mai! Alla volta, quella notte venisti per rubare con gli occhi sorriso di vigna riservati. Mi venisti a rubarmi, ladro, ladro, non vorrei dire la casse. Armiate lo scherno della morte, non mi metto pensiero, e ben voi tutti lo sapete, pistola la guarda. Sciogliete un braccio, mi scozza di mia mano. D'altro voglio parlarvi. Libero e lontano nulla. Andiamo. Lasciatela, lasciatela, 今天的歌舞剧场就到这里，感谢您的收听，欢迎关注北京音乐广播古典有限频道下面的精彩节目。